Economia in Europa. In collaborazione con Euronet. Il discusso ruolo della Germania nella crisi europea, i dubbi e le inchieste sulla manipolazione dei tassi interbancari LIBOR ed Euribor, l'incontro del premier Mario Monti con il presidente francese François Hollande, ma anche l'impatto economico dei giochi olimpici di Londra 2012. Sono questi i principali argomenti della settimana al centro di questa nuova puntata di Economia in Europa. Il ruolo della Germania in questa crisi europea è tanto determinante quanto discusso. Nonostante sia sempre presa come metro di paragone nelle misurare le difficoltà degli altri paesi, non si può dire però che l'economia tedesca sia totalmente priva di preoccupazioni. Moody's, nella scorsa settimana, ha tagliato l'outlook, la prospettiva del rating sul debito tedesco. Mercoledì 25 luglio poi ha tagliato l'outlook anche di 6 Länder. Inoltre è peggiorato per il terzo mese consecutivo l'indice IFO, che misura la fiducia delle imprese tedesche nella congiuntura economica. Simone Spezia ne ha parlato con Fedele De Novellis, economista del centro REF, ricerche per l'economia e la finanza, che in alcuni suoi studi ha iniziato a sottolineare un pericolo di rallentamento, se non di recessione, anche per Berlino. Parlare di recessione forse è eccessivo. Quello che si vuole sottolineare è che noi ci siamo mossi nei mesi scorsi, sostanzialmente negli anni scorsi, in una prospettiva di divaricazione sostanziale delle tendenze dei diversi paesi dell'area euro, e forse questa divergenza sicuramente è una delle spiegazioni dei problemi di oggi, cioè queste economie europee che si muovono diversamente, che rendono difficile anche avere una politica economica comune, proprio perché la banca centrale deve rispondere a situazioni molto diverse. Dica pure impossibile avere una politica economica comune. Comune, insomma, non c'è problema. D'altronde, quando pensavamo all'euro come avremmo voluto che fosse, non necessariamente come sarebbe stato, visto che poi non lo è stato, immaginavamo che si potesse procedere con delle riforme per creare delle forme di flessibilità, di prezzi relativi, di movimenti, di fattori produttivi tali da portare una forma di convergenza. E uno dei problemi è che invece questa forma di convergenza non c'è stata. Ora, il fatto di vedere qualche segnale di rallentamento, anzi più di qualche segnale anche in Germania, naturalmente è un segnale che si presta a una duplice lettura. Non è certamente un mal comune mezzo gaudio, anzi un elemento in più di preoccupazione, perché ovviamente se vediamo che anche la forza della locomotiva tedesca ha delle difficoltà, vuol dire che questo è un problema che si aggiunge. Un problema che si aggiunge, che però possiamo anche provare a immaginare come la controparte della nostra crisi. Voglio spiegarmi: nel corso degli ultimi mesi, tra le tante disgrazie che hanno caratterizzato la congiuntura dei paesi della periferia, c'è un segnale che si osserva, particolarmente marcato, cioè il forte miglioramento dei saldi dei conti con l'estero, la bilancia commerciale. È normale, se una crisi crollano le importazioni e quindi perché cade la mia domanda. Certo. Ma quando una crisi di domanda, quanto più la mia domanda si scarica sull'import, tanto più vuol dire che sto esportando la mia recessione verso altri paesi e quindi che è praticamente la mia crisi un pochino meno acuta. E tutti i paesi della periferia nel corso degli ultimi mesi hanno sostanzialmente migliorato il loro saldo commerciale. Quindi la sostanza, mi scusi, io volendo proprio riassumere in maniera brutale, lei sta dicendo che stiamo esportando la nostra recessione, noi paesi della cosiddetta periferia, ma probabilmente non solo della periferia, visto che gli inglesi sono in recessione conclamata, naturalmente seppur siamo fuori dalla zona euro, sono in recessione conclamata e oggi insomma il dato sull'ultimo trimestre del PIL fa segnare un meno 0,7%, stiamo esportando la nostra recessione verso la Germania. Quindi non solo verso la Germania, anche verso la Germania, un po' verso il mondo, diciamo così. Nel mondo c'è un buco di domanda fatto prevalentemente dai paesi della periferia europea e non solo, e poi c'è un altro problema, ragioni di scambio, produttori di petrolio che guadagnano, e dall'altra parte ci sono coloro che subiscono il guadagno dei produttori di petrolio dal lato dei prezzi e sulle quantità dei paesi in recessione, tant'è che vediamo che le bilance commerciali peggiorano, quella della Germania Germania, ma anche quella della Cina, ma anche quella degli Stati Uniti, quindi paesi in grande surplus, in grande deficit. E quindi quello che possiamo dire è che c'è una ricomposizione dei flussi di commercio mondiale. Dopo lo scandalo Barclays sulla manipolazione del tasso LIBOR, molti dubbi stanno iniziando a riguardare anche l'Euribor, il tasso cugino europeo. Si tratta di parametri fissati dalle banche stesse che definiscono gli interessi da pagare per prestarsi capitali a vicenda. Nelle ultime settimane diverse inchieste stanno mettendo in discussione le modalità con cui queste cifre vengono individuate, ipotizzando possibili conflitti di interesse e manipolazioni. Come sarebbero stati manipolati questi tassi? Sentiamo la spiegazione di un trader indipendente, Luca Barillaro. Bisogna distinguere tra ciò che è mercato e ciò che è fixing, cioè sia il LIBOR che l'Euribor vengono trattati giornalmente per diverse ore sui mercati future sia in Europa che negli Stati Uniti attraverso i future su euro-dollaro, tasso di interesse a 3 mesi, sia future Euribor all'IFFE di Londra. Quindi fanno parte comunque di un mercato regolamentato per ciò che riguarda la trattazione continua. L'attenzione che c'è in questo momento su questa inchiesta è più che altro sui fixing dell'LIBOR e dell'Euribor, cioè tra le 11 e le 11.10 di ogni giorno lavorativo bancario a Londra viene chiesta a un panel di banche che hanno determinati requisiti di masse monetarie e di tesorerie sufficientemente elevate di esprimere quale sarebbe il tasso a cui sarebbero disposte a prestare il denaro a una loro controparte di pari misura. È chiaro che il vero problema è proprio qui, cioè la maggior parte dei mutui, ma anche delle emissioni obbligazionarie, quindi non c'è solo un problema lato impieghi, ma anche un problema lato raccolta, fissa il LIBOR attraverso il fixing, cioè prende come punto di riferimento non un prezzo medio trattato all'interno di più giorni o trattato all'interno della giornata, ma fissa una determinazione puntuale. Ovviamente manipolare un mercato sull'arco di più ore, più giorni risulta praticamente impossibile, specie se è regolamentato. E qui già abbiamo a che fare con una cosa già over the counter, cioè grigia, nel senso che si va a chiedere delle banche ma non su un mercato regolamentato. Il secondo punto è che è una domanda, cioè è un'aspettativa, non è uno scambio di mercato effettivo, è quasi un exit poll, per volendo fare un paragone, cioè si chiede a queste banche ipoteticamente a quale tasso vorreste sareste disposte a prestare. Quindi chiaramente questo pone un ulteriore problema, perché c'è differenza tra elezioni e exit poll, come c'è differenza, anche se infinitesimale, tra prezzo di mercato poi che si verifica sul mercato mediamente nell'arco della giornata e un fixing. È chiaro che qui parliamo di grandezze finanziarie che influiscono su masse monetarie enormi, nell'ordine di trilioni di dollari, perché abbiamo i bond emessi legati all'LIBOR più spread, abbiamo i mutui, ma abbiamo anche i forward rate agreement sui tassi di cambio. Il problema del fixing dell'LIBOR è che in realtà i meccanismi della British Banker Association per evitare la manipolazione ci sarebbero anche, perché in questa intervista che viene fatta giornalmente alle banche inglesi vengono eliminati il 25% di coloro che sparano un prezzo troppo basso e il 25% di quelli che lo sparano troppo alto, vengono eliminate le code della gaussiana, per dirla in breve, quindi su 10 contributori i peggiori due, i migliori due vengono eliminati, viene presa la media, ma come in tutti i mercati, non solo quello finanziario ma anche quello dell'economia reale, se poi si viene a creare un ipotetico cartello è chiaro che tutti i meccanismi anti-manipolazione sono messi in dubbio. L'Italia e l'Europa sono vicine alla fine del tunnel. I partiti la smettano con il clima di rissa che rende scettici i mercati sulla stabilità futura e influenza lo spread. Questo perché lo scenario peggiore da esorcizzare è andare al voto, sì a scadenza naturale, ma senza una riforma. In partenza per il suo tour europeo, il premier Mario Monti ha espresso questi concetti in una telefonata a Radio Anch'io. Stanno succedendo due cose, che la fine del tunnel sta cominciando a illuminarsi e che noi e il resto d'Europa ci stiamo avvicinando alla fine del tunnel. Sono state molto importanti le decisioni che abbiamo preso a 17 e a 27 nel Consiglio europeo del 28-29 giugno, abbiamo impiegato un giorno e una notte, ma sono state proficue e adesso ne stiamo vedendo le conseguenze in termini di maggiore disponibilità sia delle istituzioni europee sia dei singoli governi, compresi quello tedesco e quelli del nord, credo, a fare tutti la loro parte, oltre che, come usiamo dire, a fare ciascuno i compiti a casa. Oggi l'incontro a colazione col Presidente Hollande, si iscrive in questo quadro. Vogliamo verificare i rispettivi punti di vista e vogliamo vedere come insieme Francia e Italia possano contribuire all'accelerazione di questo processo, che è contemporaneamente di messa in sicurezza dell'euro, questa grandissima costruzione qualche volta un po' scricchiolante, e di deciso impulso alla crescita europea. E continuiamo a seguire Mario Monti, che martedì 31 luglio ha incontrato il presidente francese François Hollande. La posta in gioco è talmente vitale, ha detto Monti, riferendosi alla prospettiva di stabilità dell'Eurozona, che non possiamo permetterci neanche un minuto di disattenzione. Sentiamo. Condivido parola per parola quello che ha detto il presidente Hollande circa il graduale schiarirsi delle prospettive di stabilità dell'Eurozona, ma è talmente vitale per tutti e per ciascuno di noi la posta in palio, la stabilità, la forza dell'Eurozona, la sua capacità di contribuire alla crescita economica e sociale dell'Europa, che non ci possiamo permettere neanche un minuto di disattenzione. Italia e Francia riaffermano la loro volontà di impegnarsi e di fare tutto il possibile affinché le decisioni del Consiglio europeo siano applicate e la zona euro sia difesa, preservata, consolidata. Lo ha affermato il presidente francese François Hollande dopo un incontro all'Eliseo con il presidente del Consiglio Mario Monti. Italia e Francia organizzeranno un vertice bilaterale ad inizio dicembre a Lione. Lo ha annunciato il presidente francese dopo l'incontro appunto con Monti. Simone Spezia ha raccolto martedì 31 luglio il commento di Gerardo Pelosi, inviato per il Sole 24 Ore al seguito del tour di Monti dopo l'incontro con Hollande e alla vigilia dell'incontro con il premier finlandese. Sentiamo. Il patto di ferro siglato oggi all'Eliseo tra Monti e Hollande è parte di una strategia molto complessa che negli ultimi giorni ha visto succedersi una serie di enunciazioni alle quali si spera che entro giovedì il direttorio della BCE possa dare corpo con atti concreti. Ma il problema è appunto di ridurre il divario tra il nord e il sud dell'Eurozona, ricreare un clima di fiducia che eviti quello scontro e quella mancanza di coesione all'interno dei 17 paesi dell'Eurozona. E in questo quadro, mentre Monti rafforza con Hollande il nocciolo duro del direttorio, che non è più soltanto franco-tedesco, si sta parlando di questo Mercolland, cioè un direttorio, un nucleo duro franco-tedesco aperto però a Italia e Spagna. Dall'altro si cerca di avvicinare o di rendere più flessibili le posizioni di quelle sentinelle del rigore tedesco come Finlandia e Olanda. È in questo senso, Gerardo, che si inquadra il viaggio in Finlandia di Monti? Assolutamente sì. Considera che il primo ministro finlandese, già prima del Consiglio europeo del 28 e 29 giugno, si era espresso in termini molto critici sulla possibilità di trovare un meccanismo salva spread. Poi, dopo quel Consiglio, ai primi di luglio, addirittura c'era stata la minaccia di uscire dall'euro nel caso in cui paesi virtuosi come appunto Francia, come l'Olanda e la Finlandia avessero dovuto pagare il prezzo di salvataggi dei paesi del sud Europa. Adesso ci troviamo in una situazione in cui anche questi paesi stanno capendo lo sforzo. Questo ovviamente è stato motivato dal cambio di passo e di linguaggio da parte della Merkel. Anche ieri l'incontro del segretario al tesoro americano Geithner con il ministro delle finanze tedesco Schäuble e quindi l'apprezzamento per gli sforzi di Italia e Spagna è stato importante per creare quel clima di fiducia. Insomma, quando c'è l'incendio è chiaro che tutti gli elementi di divisione, anche geografica, tra mentalità completamente diverse, emergano in tutta la loro forza, e questo si sta cercando di rendere più fluido. Si è aperta venerdì a Londra la 30ª edizione dei Giochi Olimpici. 205 nazioni partecipanti, 10.500 atleti, 4.200 alle Paralimpiadi, 36 impianti sportivi, 4 milioni di visitatori attesi. La spesa complessiva per i giochi è stimata in 9 miliardi e 300 milioni di sterline, circa 12 miliardi di euro. E sono stati 50.000 i posti di lavoro creati, 10 chilometri di strade costruite, ogni giorno previsti 12 milioni fra viaggi e spostamenti, 15 milioni nei giorni di punta. E si è svolta venerdì la cerimonia d'apertura affidata al regista premio Oscar Danny Boyle. È costata oltre 27 milioni di sterline, ossia oltre 34 milioni di euro. Fra le aziende coinvolte c'è stata anche la Clay Paki S.p.A. bergamasca, già attiva nei giochi di Pechino e che per la cerimonia di Londra ha realizzato 700 proiettori per una commessa da 3 milioni di euro. Giovedì 26 luglio Simone Spezia ha intervistato Pio Nahum, Sales and Marketing Director di Clay Paki. Sentiamo. È una fornitura che è stata fatta alla società che produce questo spettacolo, non è stata una vendita fatta agli organizzatori dei Giochi Olimpici, ma bensì alla società di produzione che ha curato la realizzazione tecnica dello spettacolo. Allora, avete 700 proiettori vostri, sì, no? Sì, è una presenza molto importante. Faccia conto che sull'impianto che illuminerà la cerimonia di inaugurazione ci sono circa un migliaio di proiettori, di fari, come si dice normalmente, e di questi ben 700 sono della Clay Paki, dell'azienda che io rappresento. È una grandissima soddisfazione perché giocheremo la parte del leone in questa grandissima cerimonia. L'azienda nel 2011 ha fatturato a 56 milioni di euro, un più 70% sull'anno prima, quota export 95%? Nel nostro caso praticamente l'azienda è sempre stata una grandissima ambasciatrice del Made in Italy, da sempre. L'azienda esiste dal 1976 e fin dai primi passi si è sempre orientata verso i mercati internazionali. Diciamo che negli ultimi anni abbiamo avuto una crescita molto molto importante, ma sempre a favore dei mercati di tutto il mondo. E per questa settimana con Economia in Europa è tutto. Economia in Europa, in collaborazione con Euronet.